Siamo partiti, questo è lo streaming, Peppe Lange in regia, vai con banda armata maestra. Gesticola con le armi e tra i nuovi santi illuminati al neo sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione lo studente che si interroga da sé sta covando forte la rivoluzione mentre la signora bene prende il tè. Non c'è colpo di stato ed intanto farà il colpo del caffè. L'altra sera ha detto la televisione, lenti incriminati che si rafforzerà la polizia perché ha concluso infine il capo protezione. Beh, non vorrei che poi colpissero anche me. Si è accettata la promessa del scelto e tu che fingi poi di aver paura. L'ignoranza è nelle cose che non sai e cerca insomma tu di farti una cultura e giù libri legati e letti mai. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. Colpo di stato, metti la benzina e il colpo prende a te. E c'è chi fa l'estremista per prudenza, chi comanda rappresaglie e lui non c'è, chi riempie di farina la credenza, chi fa guerra blaterando nei caffè. Poi c'è chi cercando la rivoluzione ha trovato infine le comodità, chi confonde il pranzo con la colazione, chi confonde la salute con l'età. E da migliaia d'anni non cambia la storia, Giulio Cesare, tabù, testa pelata, e il copione ormai lo sanno tutti a memoria, e la solita non cambia la menata. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. Colpo di stato. Va allo stadio, aspetta, vengo insieme a te. Siamo tornati dopo una settimana di un po' così, che abbiamo preparato la grandiosa festa di musica per l'ambiente da ieri. La inesplicabile. Inesplicabile, ecco, è come un conto, direbbe qualcuno, esatto, no? Esatto, esatto. Avete potuto vedere lo streaming, avete potuto sentire la diretta, avete potuto partecipare attivamente. Questa è stata proprio un'occasione magnifica, storica all'università, in cui le grandi firme sono fatte da parte, noi che dobbiamo andare a sentire sempre qualcuno, sentiamo noi stessi, sentiamoci. Questo era lo scopo del gioco e la situazione è stata carina, Gustavo, è bella. Oggi è stata la grande partecipazione di Gesù. Gesù non ha voluto partecipare alla cosa. Però secondo tre grandinate e cinque feste. Abbiamo raggiunto un grande obiettivo, secondo me. Abbiamo raggiunto il grande obiettivo di fare una festa di ingegneria in periodo d'esami, con tre grandinate in un giorno, 10 pullman che hanno lasciato l'università alla volta delle discoteche più blasonate di Cosenza. Twin di Cosenza. E ci siamo riusciti, però una stantina di persone c'erano. Comunque un saluto per cominciare la puntata, al di là dei nostri deliri, un saluto a tutti gli ascoltatori, quelli che ci stanno ascoltando sul web, sulle frequenze web di Fuori Onda Radio, fuoriondaradio.altervista.org. Esatto. E poi facciamo un saluto anche a coloro che ci ascolteranno in differita su Radio C Roma, molto probabilmente venerdì sera, venerdì pomeriggio alle 5. Alle 5, 105.7. Bravo. E poi transizione TDF, transizione di fase. di cui stasera in aula abbiamo una gloriosa esponente. Sì, un'avanguardia. Del panorama dell'informazione indipendente, diciamo, cosentina e nonna. Esatto. Transizione di fase martedì alle 20 www.transizionedifase.org. Andiamo avanti, andiamo avanti. Siamo molto avanti. Ecco, io inizierei con la notizia della settimana. Io metterei un pezzetto. Addirittura. E vai, Peppe, facci sognare. Ring out in a ballroom night. It's a Betty Valentine from the floor above. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, they killed my love. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. But in a prison cell, but one. Patty C and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do it, he says. He throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw them leave and he says and he stops. One of us had better hurry and call the cops. And so Betty calls the cops and they arrive on the scene with the red lights flashing in the hot New Jersey night. Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road. Just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street. Cause you wanna drive the heat. Him and Isaac Dexter Bradley were just out prowling around. Saw two men running out, they looked like middleweights. They jumped into a white car without a state plate. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cop said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. Questo è Harry. Non è che è quello che arriverà anche dalla fiomma, no? La fiomma, fiomma Hurricane, detto anche Bob Dylan, sì. Joe Wayne, ciao, ciao, vai Peppe, Peppe! Ma il punto è che Peppe ha monopolizzato la tecnologia. Peppe è il padrone della tecnologia, come diceva Luca Abbate nella sua storica trasmissione. Diceva, noi dobbiamo riappropriarci dei mezzi di produzione e poi abbatterli. Con questa conseguenza logica noi un applauso. Comunque, andando a bomba su quelle che sono le argomentazioni di oggi, se Peppe ci dai là o continuiamo col pezzo, Peppe? No, ci facciamo una discorsetta. Facciamo là. Praticamente è successa una cosa interessante, è successo che, guarda un po', i pericolosi no TAV la settimana scorsa, hanno avuto dei problemucci. Problemucci che si traducono in 55 denunciati in più i 26 fermati. Arrestati. Insomma, ci sono un po' di numeri, diciamo così. Sì, hanno fatto i numeri, no? Tutte queste. E come mai sono stati denunciati e arrestati questi no TAV? Per pericolosi reati che minacciano la natura stessa della democrazia. La salvaguardia del territorio? No, sei il solito sovversivo, Gustavo, sei il solito sovversivo. Insomma, loro era chiaro che loro prima o poi dovessero fare quella vita. No, che poi io sono convinto del fatto che comunque quella, la loro battaglia, la battaglia dei Valsusini, che è anche un bel nome, Valsusino, no? È una battaglia sostanzialmente a difesa di quella che è la vera democrazia. La vera democrazia è quella che dice la gestione del territorio è in mano a quelli che ci abitano. E l'ultima parola aspetta a loro, è inutile che la volontà di qualche speculatore, eccetera, eccetera, voglia sopraffarli. Come d'altronde stiamo vedendo e abbiamo scritto anche in un comunicato di solidarietà, insomma, come stiamo vedendo anche che avviene, insomma, in vari scenari, anche all'università. Noi vediamo questo mercato, questi speculatori, questi accumulatori che vogliono far profitto sulle nostre vite sostanzialmente, e la cosa è la stessa, cioè l'intenzione è uguale anche nella TA, con la TA, voi mi sbaglio? Sì, noi assistiamo al fatto che piccole, cioè, le decisioni rispetto alla gestione del territorio, e non solo per così come la questione del ponte, non vengono per soddisfare i bisogni della popolazione che vivono quei luoghi, ma sono semplicemente uno strumento per arricchire determinati gruppi di potere, e da qui nasce, scatta l'imposizione che diventa anche poi repressione, come è il caso degli arresti. Il punto è proprio questo, cioè chi cerca di organizzare e fare di questo paese un paese più libero, più democratico, di difendere e resistere quelle che sono le aggressioni di speculatori e avvelenatori, è oggetto di repressione, non è benvenuto in questo Stato. Questo dimostra quali sono i margini reali di democrazia all'interno di questo. Che poi Stato. Un altro argomento che ci viene sempre rinfacciato quando diciamo queste cose è il concetto della violenza. Ma poi mi facevo una domanda io, che a cui tu potrai tranquillamente rispondere, questa è la tua grande verve creativa e intellettuale. Diciamo, il mio marzullismo. Il tuo marzullismo. Ma chi è più violento? Quello che toglie il futuro a centinaia di migliaia di famiglie, oppure le famiglie che cercano di resistere a questo sopruso? È la domanda che mi viene in mente. È vero Gustavo, però queste domande, bene, siccome sono domande grandi e importanti, conviene che noi diamo lo suggelliamo, stimolo, suggelliamo. Diamo lo stimolo, e i nostri ascoltatori ci riflettino, esatto. E al prossimo stacco e magari ci mandano una mail a @ con la @alimentati.org. se trovate le risposte alle domande che Gustavo in ogni trasmissione fa, mandateci una mail alla @, ripetiamo, @alimentati.org. Oppure leonemarino86 @johnwayne.asdrubale. Cerca d'amore, questa qui. Ecco, a posto. Ok. Parli di amore. Vai là. Vai là. Vai là. Baby burn. Ecco, il gesto fluente, morbido, plastico della mano di Peppe segna la ripresa della nostra trasmissione. E come i CCP dicevano, in attesa di un passaggio che non so se verrà, ma non credo che venga, è così, noi non possiamo che sentirci così quando il nostro primo ministro Monti, il ben voluto, l'uomo in doppio petto, ci dice che i giovani dovrebbero un po' mettersela via e dire: ma che cosa ve ne fate di un posto sicuro? Voi ancora pensate al posto sicuro? Ma no, pensate alla libertà di non sapere mai che cazzo fare nella vita. Questo è la creatività al potere, mettiamola così. E detto questo, noi non possiamo che tornare al punto, perché probabilmente si sarà sentito anche senza passaggio Giuseppe Tiano, quando alle 8 di mattina è stato svegliato dai simpatici, come dire, simpatici lavoratori della sicurezza e statale peraltro e sicuramente loro nel portarlo in questura si saranno accorti di quanto sia aberrante qualcosa di questo. Chi conosce Giuseppe sa che è un uomo mite e dal cuore grande, il cuore d'oro, di conseguenza è dire poco, è dire niente che quelle accuse non significano niente, perché quelle accuse sono un segnale chiaro e preciso. Però sicuramente se qualcuno voleva intimidire ha avuto il risultato opposto, il risultato che non possiamo che di nuovo tornare a compattarci uniti contro l'autoritarismo che subiamo giorno per giorno. E oltre al fatto che noi con la rete in difesa del territorio franconistico, le battaglie che facciamo per l'ambiente, vanno dalla difesa del diritto alla salute fino all'opposizione ferma e convinta all'idea, per il momento è tornata ad essere un'idea, del ponte sullo stretto. Perciò noi non possiamo che essere solidali con le altre lotte ambientali. E a parte questo, il punto è che non possiamo non essere solidali con chi si batte giorno per giorno per fare della Calabria un posto migliore. Perciò solidarietà a Peppe Tiano, questo era un passaggio che era doveroso. E detto questo, Peppone, lancia un altro pezzo. Ciao. Pronti, pronti, pronti? Ci siamo, Peppo? Non ho visto il gesto fluido, plastico, dinamico. No, ancora più fluido, ancora più fluido, Peppe. Più fluido il gesto, Peppe. Ok, va bene, adesso possiamo continuare. Perché sapete, ci sono dei riti, delle ritualità che uno non può disertare così. E il gesto fluido, plastico, dinamico di Peppe è uno di questi. Continuiamo parlando dello sciopero generale indetto dalla FIUM CGIL per l'11 febbraio. Questo è una delle attenzione, cioè, sento una porta che si apre e un Pierpaolo Nisci che si avvicina. Pierpaolo, vuole dire qualcosa al nostro microfono magico? Qualcosa che riguarda la democrazia al lavoro, lo sciopero dell'11 febbraio, così. Cosa ne pensa dello sciopero dell'11 febbraio? Dammi il tempo di prendere un po' di fiato e poi possiamo parlare. Magari. Nel frattempo c'è il solito disturbatore alla Paolini che interviene da Tergo aprendo le pagine internet. Ma questo è una webcam microfono? Questo è un microfono panoramico che noi stiamo sfruttando. È un microfono panoramico, non è una webcam. Esatto, sembra una webcam ma noi lo utilizzeremo come... Le cose non sono assolute, sono relative. Se una cosa è fatta in un modo, tu puoi comunque sempre utilizzarla per un altro scopo, no? Esatto. Relativismo. È relativo all'obiettivo che vuole raggiungere, sempre, tutto è relativo all'obiettivo che si vuole raggiungere, e questo è il punto. Lo sciopero FIUM è interessante capire qual è l'obiettivo che sta dietro questo sciopero. Ci sarebbero da fare un discorso forse più ampio e variegato su quella che è stata la politica della FIUM negli ultimi tempi, perché dopo la grande apertura del 16 ottobre di oramai... Sono quanti 16 anni ottobre 2010. Due anni fa? Un anno e qualche mese fa. E io direi facciamo due anni, cifra tonda. Visto che tu stai facendo il PM in questo caso qui, cerco di fare l'avvocato, cerco di fare l'avvocato un pochettino della FIUM. Vabbè, anche se è un ruolo assai scomodo che non vorrei assolutamente avessi. 16 ottobre 2010 stai dicendo? Che appunto è stata una data importante perché ha aperto una stagione di lotte e di conflitti sotto la bandiera comune del bene comune. Non abbiamo capito cosa vuol dire. È stata una giornata importante perché per chi credeva veramente che si potesse costruire qualcosa di serio, un percorso comune che poi potesse portare a qualcosa di ancora più... Più importante rispetto a quella giornata del 16 ottobre, che noi stessi pensavamo non fosse fine a se stessa. Ti ricorderai, la stessa assemblea del 17 ottobre, tutta la facoltà di scienze politiche della Sapienza sembrava dovesse gettare i presupposti per un percorso differente rispetto a quello che poi è stato. Noi stessi qui a Cosenza siamo stati protagonisti di diverse iniziative fatte anche con la FIUM, nell'intento di creare, ribadisco ancora una volta, un movimento più complessivo sul bene comune, certo. Forse diciamo che poi le nostre attese furono disilluse in maniera abbastanza forte dalla buffonata dello sciopero generale di 2 ore e 5 minuti chiamato dalla Camusso a maggio. La pausa caffè generale dello scorso mese di maggio, che poi ovviamente non... Appunto, nulla. E appunto qui sta il punto della discussione. E perché una volta che tu fai un'apertura così complessiva, una volta che tu ti afferri il principio che bisogna fare uno strappo forte, un segnale chiaro in difesa dei diritti dei lavoratori, dopo, anche se fai parte di un sei come dire, un sindacato di categoria, di un sindacato generale, di un sindacato confederale. Della CGIL, cioè, no, non puoi continuare a stare a questa norma. Della concertazione del suo pane quotidiano, ecco. Non usa la lotta come pratica principale Ma anche, quindi, se tu poi ti rimetti a queste logiche, c'è un problema. E di conseguenza adesso eh, da, dalla, dall'esempio della Bertone, no? Del referendum al Bertone, allora da lì un po' sorgono dei dubbi, sorgono delle cose, ma veramente no, guagliando, che vogliamo fare? Questa è la domanda. E questo sciopero generale sarà forse un'occasione anche per cercare di capirlo questo. Io lancerei un pezzo. Sono perfettamente d'accordo, anche perché sono appena arrivato, quindi vorrei almeno cominciare a rodarmi. Dai, papò. Direzione sud, cercando l'altra strada che ci ha portato qui. Vedemmo Panciovilla e la rivoluzione ci disse non è morta, ci sono nuove idee. Siamo umani, siamo umani, non può andare così. Toro seduto, incazzato anche con noi. Mi scusai per la storia, ma non generalizzare. Le droghe, il gioco e il resto non piovono dal cielo. Lo so, non è progresso, ma è una già idiozia. Siamo umani, siamo umani. Non può andare così. Ah, no, no. Siamo umani, solo umani. Usa la lingua sua, regala l'importanza che se ne porterà. Vedemmo Panciovilla e la sua rivoluzione ci disse non è morta, ci sono nuove idee. Siamo umani, siamo umani, non può andare così. Il mondo ti comanda, non dà spazio, ok? Cambia forza, la tua forza è nelle idee. C'è una sola strategia che è sapere sempre più. Ah, e la tua rivoluzione comincerà così. Ritorniamo in diretta? Sì, io comunque non ho visto il gesto fluido, plastico, dinamico. Beh, eccolo lì, perfetto. Adesso possiamo iniziare. Mentre il nostro regista tecnico saluta gli spettatori live, ricominciamo a parlare di cose di lavoro, di lavoro e di film e di articolo 18, o no? E di articolo 18, cominciamo a parlare. Signorissima, l'intelligenza al potere ha creato Marco. Ciao. Il solito Marco che ci regala i suoi momenti esilaranti con l'inno dell'Unione Sovietica. Stavo dicendo, l'articolo 18, una delle notizie fresche di, se non di giornata, di ieri, riguarda le dichiarazioni del nostro nuovo amatissimo premier Monti, forse più amato di Berlusconi. Votatissimo, ci dice Beppe, votatissimo. Quella brava persona, sì, mi pare tanto una brava persona, Pierpaolo. Brava persona perché non va a mignotte, quindi di conseguenza è una va in chiesa, è una forse brava che, persona. Forse che allora è una persona cattiva, allora. No. Anche in effetti, il punto sarebbe solo pagarle o meno, non lo so. E ricordiamo che non è monotono. Non è monotono. Allora, al di là di questo, cosa ha detto il nostro premier? Dice praticamente il lavoro fisso è monotono, che è molto meglio svegliarsi la mattina col dubbio. Chissà se stamattina devo andare a lavorare oppure se invece mi attende un bel licenziamento così fresco di giornata. Sì. Noi scherziamo, facciamo ironia ovviamente, però la questione è piuttosto seria. L'abolizione dell'articolo 18 rappresenta veramente forse l'ultimo baluardo oltre il quale poi veramente i diritti dei lavoratori non esistono più, già nell'ultimo lustro, potremmo dire sicuramente. Le offensive da parte sia dei governi che si sono succeduti, sia da parte delle varie non solo delle coalizioni politiche, ma anche degli organi tipo Confindustria, dei marchioni di turno e non solo, hanno portato ad un arretramento nel campo dei diritti della tutela dei lavoratori veramente anacronistico. Se 50 anni fa lotte operaie erano finalizzate ad aumentare tra virgolette i loro diritti, ad avere qualcosa in più, oggi invece, lo diciamo già da tempo, questo è ormai uno slogan quasi, oggi invece praticamente ci troviamo a vedere esattamente lotte di natura esattamente opposta, non lotte per avanzare ma lotte per non retrocedere, ovvero resistere sul campo dei diritti dei lavoratori. Bene, l'abolizione dell'articolo 18 a mio modo di vedere è l'ultimo veramente gradino oltre il quale poi credo non ci sia poco altro da scavare. Il fondo del baratro penso che sarà raggiunto da questo punto di vista, perlomeno. O se non sarà raggiunto, ci mancherà veramente poco. La cosa interessante è appunto di questa manovra, di questo modo interessante di come dire, modificare i diritti dei lavoratori. È proprio quello che è una manovra sostanzialmente condivisa da tutte le grandi coalizioni e i grandi partiti che appoggiano il governo Monti. Beh, sostanzialmente anche da quella che è l'opposizione parlamentare. In realtà l'opposizione parlamentare, mi permetto di correggerti, non esiste. Quei quattro polli. Non esiste in questo momento qua perché è quasi tutta maggioranza, a parte la Lega che sta cercando L'IDV non sappiamo qual è la sua posizione, ma in realtà da questo punto di vista... Gli piace cambiare posizione, insomma, è una scollacciata. Quello piace anche a me. Comunque, dicevamo, sì, dicevi bene, sul PD sicuramente dicevi bene, perché il PD, d'altronde, il precursore dell'abolizione dell'articolo 18 è uno degli esponenti, se non di spicco, comunque uno degli economisti di spicco del PD, il signor Ichino, che per l'appunto parlava di questo mondo, di un nuovo mondo del lavoro svincolato dal contratto a tempo indeterminato, invece che va ad abbracciare il mondo della flessibilità. Praticamente chi lavora non ha più un lavoro a tempo indeterminato, grazie al quale non ha non può essere licenziato senza una giusta causa, Invece dice Aichino, facciamo che qualsiasi lavoratore può essere cacciato, può essere licenziato, e dopodiché per i primi 3 anni percepisce un contributo pari all'80% del suo stipendio il primo anno, il 70% il secondo anno, il 60% il terzo anno. Mm-hmm. E grosso modo l'impostazione data da Monti sulla base delle sue ultime dichiarazioni dovrebbe essere simile a quella di Aichino. Monti ha detto, tra l'altro, due grandissime boiate. La prima, il posto di lavoro fisso è monotono. Vallo a dire ad un padre di famiglia di 55 anni che magari è lasciato senza lavoro da un giorno all'altro, se è monotono o meno il suo posto di lavoro. Forse diceva che potrebbe essere monotono, magari se sei disoccupato, no? Forse c'è la cassa integrazione. E allora se ti scocci stare a casa, ti scocci anche stare a casa, io lo capisco. Perciò dice lui, e per togliere questa monotonia, noi facciamo anche una cosa, riduciamo sostanzialmente anche l'importo della cassa integrazione. Tra un po' la cassa integrazione finirà. Di conseguenza il licenziamento facile sarà forse pure una soluzione un po' più dinamica, più interessante. Diamo una botta di vita. Una botta di vita. C'è poco da divertirsi e svegliarsi il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, forse anche il sabato, la domenica, e andare a fare sempre il solito lavoro. Ogni tanto un bel licenziamento, così per dare... Opla! Ecco, per rivitalizzare un pochettino l'andamento della giornata, della settimana, ci vuole. L'altra grande cazzata che dice Monti è quella che riguarda la condizione dei lavoratori. Dice, ecco, ci sono persone ipertutelate, traduciamo, le persone ipertutelate sarebbero coloro che hanno un posto di lavoro fisso. Sono dei privilegiati, magari chi va a lavorare da tutto il giorno per 1.000 euro al mese è un privilegiato, siamo d'accordo, no? Certo. E d'altra parte ci sono quelli che sono assolutamente non tutelati, che sono i disoccupati. Su questo non ha torto. Dice lui, dobbiamo evitare le diseguaglianze. Per evitare le diseguaglianze facciamo che nessuno più abbia un posto di lavoro fisso. Esatto. Quindi ecco, se tu ci pensi, Monti sta facendo tutto questo non a fin di male, ma lo sto facendo per eliminare le disuguaglianze. Quindi, siccome ci sono dei disoccupati, chi non ha un posto di lavoro, comunque i precari, che ha un posto di lavoro non fisso, allora non è giusto. Facciamo sì che coloro che lavorano siano licenziabili, così sono tutti sullo stesso... E come si suol dire, se festa deve essere festa per tutti, insomma, hai capito? Più che festa, in suo caso, che mi pare che è un funerale, però vabbè. Peppe, una canzone che... Che rallegri, guardi. Esatto, vai. Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con 4 infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa figlia con me. Ma alla fine mi sento papà, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevi un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le 3, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma. Carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e cuore chissà, se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che hai chissà caffè. Adesso lo fai col mento? Fai col mento? Ok, è andato, andato. Detto questo, una delle cose di cui stavo parlando appunto è questa magnifica, scoppiettante riforma del mondo del lavoro, che giustamente, come notavamo, ci coglie un po' stupiti notare, ci coglie stupiti ma non tanto il notare che c'è una sostanziale unanimità nell'appoggio a queste manovre. Perché dico che non ci sorprende? Perché giustamente la proposta di Chino è fatta a calco su tante altre proposte del genere. Basta di pensare che il PD, quello che adesso è il PD, che prima propose il centro-sinistra del governo. Chi? Il PD. PD, hai capito? PDing una cosa. Ah, PDing una cosa. Quello che adesso è il centro-sinistra di governo è stato il fautore della flessibilità per definizione, cioè il pacchetto 3 e le altre misure. Tiziano 3, Udeur, che poi accostare il termine Udeur e Treva a sinistra mi fa venire proprio i brividi. Vabbè. E chi vuole andare al governo? I governisti hanno questo problema, questo difetto. E quindi loro sostanzialmente sono anche stati i padri di tante altre simpatiche riforme, come quella che riguarda l'università. Non dimentichiamo che l'università come la conosciamo adesso è passata per le forche caudine della legge Gelmini, Zecchino Berlinguer, della legge Mussi. Diciamo che è passata per le forche caudine di 20 anni di riforme, più che riforme, contro riforme non da poco che hanno tutte seguito un progetto abbastanza omogeneo e ben indirizzato, che poi tassello per tassello sta portando per l'appunto porterà alla privatizzazione degli atenei, se non di fatto formale, proprio da un punto di vista sostanziale. Esatto. Basta notare l'erosione della didattica, dei fondi pubblici, anche dell'organizzazione stessa degli atenei. La gestione dei servizi, quali una sorta servizi di liberalizzazione, dell'università. Una liberalizzazione non annunciata con la gran cassa e la banda, ma di fatto realizzata poco per poco e che in maniera del tutto subdola sta procedendo gradino per gradino fino ad arrivare al 100% della sì. Gradinoni a volte, anche a volte in gradinoni. A volte più che gradinoni, muri direi. Muri 3-4 metri. Esatto. Per rendere un pochettino l'idea con un paragone abbastanza fisico. Il governo Monti non è da meno. Il governo Monti, ricordiamo che Monti nei primi giorni di gennaio dello scorso anno, quindi 13 mesi fa, sulle colonne del Corriere della Sera diceva che il governo Berlusconi aveva fatto una grande innovazione, e questa innovazione era per l'appunto la riforma Gelmini, che noi bene sappiamo quanto ci è costata e quanto ci costerà soprattutto nel futuro, costerà soprattutto sempre di più alle future generazioni, perché è una riforma che sia i tagli del 2008 sia la riforma del 2010 si abbatteranno in maniera via via maggiore nelle generazioni future. Più passa il tempo, insomma, più queste riforme verranno a fare male. E Monti quindi disse le due cose più innovative che sono accadute in Italia negli ultimi anni sono la gestione, insomma, del mondo del lavoro fatta all'interno della Fiat da Marchionne e la riforma Gelmini dell'università. Quindi già da qui si capisce bene l'impostazione. Infatti per l'appunto gli ultimi due argomenti che stiamo trattando oggi riguardano il mondo del lavoro e la riforma, l'abolizione dell'articolo 18. Quindi ci aveva azzeccato. Più che ci aveva azzeccato, aveva in maniera molto lungimirante previsto il suo avvento al governo, e quindi poi è stato coerente. La coerenza a Monti bisogna riconoscerlo. È stato coerente con quello che diceva, infatti si sta comportando in maniera assolutamente coerente con le sue dichiarazioni. Mettiamo un pezzo per siccome il nostro premier ci richiede di essere non monotoni, noi spezziamo la monotonia del nostro discorso con un pezzo che verrà lanciato nei prossimi secondi dal nostro Pepe Lounge. Questo pezzo l'abbiamo pensato per il nostro Giuseppe Di Amo. Giuseppe, vai! questa canzonaccia era una canzonaccia dei Biscay 99 Posse, dedicata a chi resiste alla repressione istituzionalizzata, alla violenza di Stato, insomma. Che talvolta diventa un po' ridicola, veramente. Come nel caso di Giuseppe, ma questa è un'altra storia. Peppone, lancia quella sigla che, visto noi abbiamo shiftato la rubrica. C'era una volta l'università, dove scorgava libero e felice tutto il sapere del mondo. Ma un brutto giorno baroni banchieri, rettori ordinari si nascosero in un cespuglietto nei pressi della fonte. E mentre il povero studente si apprestava ad abbeverarsi alla fonte del sapere, ministri, professori saltarono fuori e fecero un salboccone. C'era una volta l'università, la rubrica di approfondimento universitario che stavate aspettando. Questo fluido plastico dinamico. Perfetto. Questa è la nuova rubrica che abbiamo inaugurato dalla scorsa puntata, ed è la rubrica appunto sulle questioni più prettamente studentesche. Noi adesso chiaramente abbiamo fatto un passaggio che collegava le due cose, che erano due argomenti diversi, e quindi ci siamo sciffatati dentro questa rubrica. Diciamo che formalmente noi non possiamo che collegare tutti i fenomeni sociali che vediamo attorno a noi, insomma, perché c'è una ragione di fondo. Noi, quindi, tornando a parlare di università, dicevamo che anche lei è stata liberalizzata a modi, visto che questa è una parola che ormai vuol dire tante cose, e si parlava appunto, sì, anche diciamo che liberalizzare è il termine con cui in questi giorni qui il termine che viene fatto passare sempre comunque per positivo, con cui ci si permette di fare quello che si vuole. Liberalizzo, quindi va bene, è una cosa positiva, si può fare. Sì, così come sdoganiamo, si voleva, ma non si è fatto, sdoganare il prestigio di notai e avvocati, così adesso si dice, per l'università sdoganiamo tutto, sdoganiamo, così come basta guardare quello che succede per il valore legale del diritto allo studio, no? L'ultimo decreto di semplificazione del governo voleva introdurre la negazione, l'abolizione di quello che è anche quel pezzo di carta che ci abbiamo in mano, il valore ai fini lavorativi, no, Pierpaolo? L'altra parte stiamo dicendo per l'appunto che l'abolizione del valore legale del titolo di studio va in continuità con quello che è stato fatto negli ultimi 20 anni di riforme universitarie. Questo va in continuità soprattutto con il tentativo di privatizzare le università, che è stato un tentativo neanche troppo celato, di dividere il sistema universitario italiano. Questo è il progetto della vecchia ACUIS, ovvero di quel gruppo di università che si erano consorziate al fine di garantire i propri privilegi, di dividere il mondo universitario in due blocchi, quello di università virtuose e quello di un mondo di università invece, come possiamo definirle, scadenti. La serie cadetta. Un mondo di università private, un mondo di università pubbliche, un mondo di università di alto livello, tra virgolette, un mondo di università fatta per i pezzenti. Mm-hmm. L'abolizione del valore legale del titolo di studio, per come il nostro governo la sta intendendo, va proprio in questa direzione qua, ovvero riuscire a eliminare innanzitutto il lavoro legale del titolo di studio, quindi il voto non conta più quello che loro chiamano metodo, via dicendo, e poi però differenziare il valore delle lauree ateneo per ateneo. Quindi se tu esci dal Politecnico di Milano la tua laurea vale 10, se tu esci dall'Università della Calabria la tua laurea vale 5, 6 se va bene, e questo è proprio in continuità con i progetti realizzati da tutti i governi di centrodestra e di centrosinistra negli ultimi 20 anni, come dicevi precedentemente tu. E che comprende le riforme fatte anche dalla vecchia riforma Berlinguer, la riforma Zecchino, la Moratti, i tagli fatti da Gelmini e poi la successiva riforma dello scorso anno della Gelmini stessa. Tutti i tasselli, tutti i componenti dello stesso mosaico che poi sta arrivando per l'appunto al suo... alla sua continua, alla sua assoluta devastazione, alla devastazione definitiva. Quello che è il suo obiettivo, per l'appunto. Sì. È chiaro che il fine ultimo di questo progetto pluriennale, che consta di più tasselli, come dicevamo, è quello di asservire completamente il mondo universitario alla logica di mercato, sto dicendo per l'appunto ai desideri di Confindustria. Cioè, Confindustria detta l'agenda del governo, il governo realizza in maniera abbastanza celere. Ma quante ne fa questa Confindustria? Quante ne fa questa Confindustria? È proprio così. Cioè, questa penso che una cosa che volevo fare una piccola parentesi rispetto a quello che mi suscitava il discorso di Pierpaolo, ed era appunto quello per cui ci siamo sempre battuti e abbiamo sempre detto in molti modi diversi, cioè che il sapere e il numero non sono legati in nessun modo. Giustamente, come si fa a quantificare la conoscenza da acquisire in un corso? Come si fa a quantificare il sapere? Noi ci siamo ripetuti che è giusto che il sapere sia svincolato da queste come dire, definizioni, da queste caselle. Questo è un concetto che vuole dire tante cose. Anche perché poi è facile mettere su una bilancia della pasta, pesarla. Se sono 500 grammi, sono 500 grammi, non puoi dire il contrario. Se sono 300 grammi, sono 300 grammi, non puoi dire che sono 1000. Ma il sapere come lo misuri? Qual è la bilancia? Qual è il metro? Qual è il barometro con cui tu vai a misurare la quantità e la qualità e quindi il valore complessivo della conoscenza, del sapere, delle competenze di un individuo, di uno studente, così come di qualsiasi altra persona? È vero. Non è facile determinarlo. Ma nonostante, ed è proprio per questo che noi ci siamo opposti, ci opporremo ai crediti formativi, a questa organizzazione dell'università, perché in questi corsi di laurea, a tante altre misure che diversi governi hanno provato o sono riusciti a fare l'università. Il punto in questo caso diventa quello che non ha senso, non è giusto affermare che ci sono università che valgono di più, che hanno una preparazione migliore, e università che hanno una preparazione scadente, e quindi questa cosa quasi quasi punisci quelle che hanno una che sembra nell'immaginario che tu punisca quelle che hanno una preparazione per virgolette peggiore. Il punto qual anche, è? Anche è che perché hanno, sei benissimo. Hanno che non si non è questo il modo per risolvere il problema della formazione. Se esiste un problema della formazione, non riguarda sicuramente il modo con cui questa cosa possa valere nella vita reale. Noi ci battiamo perché tutti quanti abbiamo un lavoro, tutti quanti abbiamo di che campare, tutti quanti abbiamo la possibilità di studiare. Di conseguenza il problema dell'università sta nei fondi, nell'organizzazione della didattica, nell'organizzazione stessa, nell'amministrazione universitaria, perché non ha senso che i privati entrino. Aggiungo un altro aspetto. Fare una distinzione tra il titolo di studi che tu riesci ad ottenere all'Università della Calabria e quello che riesci ad ottenere, facciamo l'esempio dell'Università della Calabria perché ci siamo proprio qui all'Unical, e quello che tu invece riesci a conseguire al Politecnico di Milano o quello di Torino, significherebbe niente meno che realizzare una pesantissima discriminazione razziale o meglio territoriale, perché sappiamo benissimo che il 99,9% dei studenti dell'Unica sono calabresi, a meno degli stranieri, e poi chiaramente una discriminazione di natura economica, perché iscriversi alla Bocconi oppure iscriversi ad uno degli Atenei di Milano come di Torino costa molto di più, sia in termini di tasse universitarie, sia in termini di affitti e di costo della vita, che in una città del genere è maggiore. La funzione sociale che un'università come quella della Calabria o di altri Atenei del Meridione rivestono, e che è molto importante, è proprio quella di consentire anche a chi nasce e vive in terre così povere come le nostre, come la nostra, come la Calabria, di poter studiare, di poter accedere ai saperi, alle conoscenze, di poter avere anche una laurea. creare questo, questa diga che divide le università di valore, che poi chi è che lo dice che ci siano delle università di valore e altre no. Sarebbe quindi una discriminazione territoriale e discriminazione economica che porterebbe niente di meno che a 50-60 anni fa la condizione degli studenti italiani, quando un ragazzo della nostra età nato in Calabria e non proveniente da una famiglia particolarmente abbiente non aveva normalmente la possibilità di andare a studiare all'università perché i tenei si trovano tutti al nord e perché il costo complessivo dell'università era insostenibile per la propria famiglia. Esatto, un'università di classe di nuovo. Si ritorna ancora una volta a quello che succedeva 50 anni fa, quando chi aveva i soldi poteva permettersi l'università, chi non aveva i soldi doveva trovarsi un lavoro. E con questo concetto, con queste riflessioni, noi penso che possiamo concludere qui la nostra puntata di oggi. Beh, credo proprio di sì. E quindi non anche possiamo... perché siamo un po' stanchi viste le ultime 24 ore. Esatto, come abbiamo scritto e non solo. Come abbiamo scritto anche su un cartello che era in aula, ieri siamo reduci di una festa non demenziale per un profitto non personale. Quindi dire, e questo implica sforzi economici e fisici che noi abbiamo sulle spalle, che ci pesano, che comunque siamo felici, penso che possiamo dire che siamo felici di avere sulle spalle. E in questo, detto questo il nostro Peppe può mandare la sigla di chiusura. Ci vediamo giovedì prossimo, più o meno stesso orario, stesso posto, stesso bar, c'è anche un bar. Tra gente che gesticola con le armi e tra i nuovi santi illuminati al neo sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione lo studente che si interroga da sé sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Ma che colpo se lo Stato qui non c'è, colpo di Stato. E intanto farà il colpo del caffè. L'altra sera ha detto la televisione, studenti incriminati che si rapporterà la polizia, perché ha concluso infine il capo protezione. Beh, non vorrei che poi colpissero anche me. Si è giunta dalla provincia del Centro, tu che fingi poi di aver paura. L'ignoranza è nelle cose che non sai, e cerca insomma tu di farti una cultura, e giù libri legati e letti mani. Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è. Colpo di Stato, metti la benzina e il colpo prende a te. E c'è chi fa l'estremista per prudenza, chi comanda rappresaglie e lui non c'è, chi riempie di farina la credenza, chi fa guerra blaterando nei caffè. Poi c'è chi cercando la rivoluzione ha trovato infine le comodità, chi confonde il pranzo con la colazione, chi confonde la salute con l'età. E da migliaia d'anni non cambia la storia, Giulio Cesare, tabù, testa pelata, e il copione ormai lo stanno tutti a memoria, e la solita non cambia la menata. Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è. Colpo di Stato, va allo stadio, aspetta, vengo insieme a te.